Birgitta. Sapeva di dover morire. Guardò i tre uomini attorno a cui aveva ruotato tutta la sua vita negli ultimi 20 anni. I gemelli avrebbero potuto continuare a contare l'uno sull'altro. Anche se stavano per compiere 21 anni, abitavano insieme e facevano tutto insieme. Lei sperava che si sarebbero presi cura di Jacob. Era un uomo freddo e duro, che non le aveva mai dimostrato la tenerezza che lei avrebbe desiderato, ma il suo amore per i figli era assoluto. Li adorava e li viziava, e questo in qualche modo compensava la freddezza che dimostrava nei suoi confronti. Amare qualcuno insieme è bello quanto amarsi a vicenda, si diceva Birgitta. Com'è andata la giornata, tesoro? Chiese a suo marito mentre passava il piatto con le patate a Max. Jacob borbottò qualcosa. Era ancora irritato perché la sera precedente era rientrata tardi e, come se non bastasse, anche quel giorno era in ritardo con la cena. Distratta dal pensiero della visita medica, Birgitta non era riuscita a portare in tavola nulla per i ragazzi, come chiamava tutti e tre, prima delle 7:15. Niente di strano se all'inizio furono silenziosi, visto che morivano di fame. Poi si misero a parlare di barche, che insieme all'hockey erano il loro argomento preferito. Birgitta seguiva la conversazione senza prendervi parte. Già da un po' di tempo, Jacob stava pensando di cambiare barca, e lui e i figli stabilirono di andare insieme a Västerås per vederne una in vendita. «Che bello!» disse Birgitta. Nessuno rispose. Una volta finito di mangiare, i tre uomini lasciarono i piatti in tavola e andarono a sedersi in soggiorno. Birgitta sparecchiò e mise gli avanzi in 3 contenitori di plastica, uno rosso per Jacob e 2 azzurri per i ragazzi, che se li sarebbero portati a casa. Le loro voci la rasserenavano. Sentire il marito e i 2 figli davanti alla televisione era stato il sottofondo della sua vita fin da quando, attorno alla 40ª, era finalmente riuscita a diventare mamma. Aveva fatto il suo dovere, portato a termine il suo compito. Ormai i gemelli erano cresciuti, se la cavavano da soli. A volte sognava di quando erano piccoli, così inermi, dipendenti in tutto e per tutto da lei. Di notte si infilavano in camera sua e di Jacob. A volte la consapevolezza che quel tempo era passato per sempre la trafiggeva come una fitta dolorosa. Dopo si sentiva stupida, ma non riusciva a fare a meno di invidiare i genitori dei suoi alunni. Era il periodo più bello della loro vita. 2 ore dopo, Birgitta e Jacob erano sulla porta d'ingresso a salutare i figli. Rimasero a guardarli sparire oltre il giardino, verso la fermata dell'autobus, prima che Jacob chiudesse e si voltasse verso di lei. «Perché ieri ci hai messo tanto a tornare a casa?» le chiese con la mascella che si contraeva, come se masticasse, se macinasse qualcosa. «Ma, amore, c'erano i colloqui con genitori e...» Il colpo, un pugno, la centrò nello stesso punto della settimana prima. Birgitta cadde a terra e restò ferma, immobile. Jacob la fissava. «Se non fossi così brutta penserei che hai un amante. Ma chi mai vorrebbe scoparti?» Birgitta fissava la mano destra del marito. Le dita gli tremavano, come se non avesse ancora deciso se andare avanti o no. Lei però lo sapeva. Lo conosceva abbastanza bene per sapere che lo avrebbe fatto. Lo sapeva fin dalla mattina. Si era svegliato cupo, silenzioso, ed era quando Jacob non le strillava contro che doveva stare più attenta. La visita dei figli aveva solo rimandato l'inevitabile. Jacob si chinò ad afferrarla per la camicetta e Birgitta chiuse gli occhi. Il colpo successivo le fece buttar fuori tutta l'aria dal corpo. Quando sentì che il marito tornava in soggiorno, rotolò su un fianco con il viso contro il muro. Rimase lì qualche minuto a raccogliere le forze, prima di appoggiarsi alla parete per tirarsi faticosamente in piedi.